Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Eppur mi son scordato di te, non le ho detto di no. T'ho fatto piangere tanto perché io sono brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah. Ma che disperazione nasce da una distrazione, è un gioco. Non piangere salame, dei capelli per terame, sono un gioco e non un fuoco, lo sai che t'amo, io ti amo veramente. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione, che disperazione nasce da. Dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah. Ma che disperazione nasce da una.